E allora ci andiamo a ascoltare una registrazione di una corrispondenza fatta stamattina sugli aggiornamenti da Brescia. E allora siamo in collegamento con i compagni da Brescia per avere qualche aggiornamento sulla situazione dei giovani, insomma, dei lavoratori scesi dalla gru questa notte. E ciao, ci senti? Sì, vi sento. Allora, cosa ci puoi dire? Vi posso dire che sono scesi ieri sera 20:47, trattenuti in questura per operazioni di identificazione, 3 dei 4 sono stati rilasciati verso 1:30. Nei loro confronti si è proceduto alle normali identificazioni di sorta da parte della polizia e sono stati poi rilasciati e accolti da decine di persone che sono stazionate nonostante la pioggia all'esterno del palazzo della questura per poterli accogliere, salutare, abbracciare e parlare con loro. 3 su 4, Jimmy, Rashid e Harun sono stati rilasciati, in realtà Sajid Sayad ha avuto dei problemi per quanto riguarda una precedente non ottemperanza, un decreto di espulsione che aveva sulle sue spalle, quindi è attualmente detenuto, la sua posizione era un po' diversa rispetto a quella degli altri tre, però è anche stato vittima lui in passato di una truffa, o meglio, per quando ha fatto la richiesta di sanatoria nel 2009 fu truffato da un italiano che oltre alla sua richiesta ne fece altre decine e decine, promettendo di far avere il permesso di soggiorno attraverso la richiesta e l'assunzione di questi lavoratori. In realtà la prefettura negò il permesso di soggiorno per questo motivo, perché si accorsero che insomma aveva 30 colf e 20 badanti, insomma, questo signore che si era prestato a truffare, si era adoperato per truffare i migranti e prendere soldi nei loro confronti. A questo punto è scattata una denuncia nei confronti di questo per appunto truffa e a questo punto si sta lavorando perché ci sia un permesso umanitario nei suoi confronti. La prossima notizia viene da Roma, controlli di polizia a Stazione Termini, 4 arresti e 4 denunce, una notizia che risale ieri ma viene riportata dalle agenzie di stampa solo oggi. 4 cittadini nordafricani sono stati arrestati ieri dalla polizia ferroviaria della Stazione Termini e su di loro pendevano già dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Altri 4 cittadini italiani sono stati multati per non aver rispettato il foglio di via che proibiva loro di tornare nella capitale. Identificate inoltre diverse persone che rifiutavano di fornire le proprie generalità agli agenti. Rimaniamo sempre in ambito, diciamo, laziale, a Roma, e le università sono stati cancellati tagli ma solo per gli atenei privati, e quindi ci andiamo anche ad ascoltare una corrispondenza fatta sempre in mattinata con gli studenti del Manara che hanno occupato. Siamo di nuovo in collegamento, abbiamo ripristato il collegamento, ci senti? Sì, sì. Ok, ciao, allora stiamo dicendo, sei un compagno di liceo occupato Manara ieri, raccontaci come sta andando questa occupazione, come sta svolgendo e quali sono le iniziative che avete in progetto per questi giorni. Ok, niente, ieri la situazione sembrava un po' più brutta perché a quanto pareva eravamo a rischio sgombero, perciò la notte non è stata troppo facile, però alla fine non si è presentata né una volante né antisommossa né niente, non abbiamo ancora avuto nessun rapporto con la polizia. Ora la situazione è infatti ben migliore, nel senso la scuola è piena, sono partiti un sacco di corsi, ci sono corsi sulla riforma Gelmini, ma anche corsi portati così attraverso gli interessi dei singoli studenti, come corsi di fotografia o cineforum a tema. Ci dovrebbe essere anche un cineforum contro il copyright in cui vengono proiettati film ora al cinema. La fortuna è che siamo stati aiutati da dei collettivi romani che appunto ci hanno messo in comunicazione con la città, abbiamo sentito diversi giornali, sono stati scritti diversi articoli e sono anche stati fatti diversi comunicati stampa sia dagli stessi giornali che anche da partiti politici, ma anche dagli studenti auto-organizzati, gli studenti media auto-organizzati, che anche loro hanno scritto un comunicato in nostro sostegno. Comunque ora, da oggi dovrebbero partire anche altre mobilitazioni, perciò si dovrebbe anche creare un legame con le altre scuole. Senti. E allora ci spostiamo agli esteri, notizia che viene direttamente dalla Nigeria. Delta del Niger, sequestri in assalto a piattaforma di petrolio, sarebbero 7 tecnici, tutti nigeriani, sequestrati domenica sera durante l'assalto di un commando armato a una piattaforma petrolifera gestita dalla società americana ExxonMobil nel Delta del Niger. A sostenerlo è la più importante rete di gruppi militanti della regione, il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, conosciuto come il MEND, che in una nota diffusa via mail ha minacciato di colpire ancora le installazioni delle multinazionali petrolifere. L'assalto è avvenuto al largo dello stato di Akwa Ibom, in un braccio di mare ricco di petrolio non lontano dal confine con il Camerun. La settimana scorsa il MEND aveva rivendicato un altro blitz contro una piattaforma offshore nel delta del Niger, che si era concluso con il sequestro di 7 tecnici stranieri. Sabato ufficiali delle forze armate hanno ipotizzato un'offensiva militare finalizzata a liberare gli stranieri rapiti il 7 novembre. Ci spostiamo in Sud America, in Colombia, ha bombardato accampamento FARC, un minore ecuadoriano tra le vittime. Almeno 13 guerrieri sono stati uccisi in un bombardamento dell'esercito ieri contro un accampamento delle forze armate rivoluzionarie della Colombia, le FARC, nella zona rurale di Ipales, nel dipartimento meridionale di Nariño, al confine con l'Ecuador. Nelle ultime ore il notiziario televisivo Caracol Noticias ha riferito che un minore di 12 anni, che si trovava nel campo inizialmente sopravvissuto all'azione armata, sarebbe deceduto per le ferite riportate prima di poter essere evacuato dal luogo dell'attacco. Dopo il bombardamento, le truppe del comando Giungla, unità di elite della polizia, avrebbero rinvenuto i cadaveri di 13 ribelli e 2 feriti, di cui un ragazzo colombiano di 15 anni e il più giovane di 12. Secondo un comunicato del Ministero della Difesa, quest'ultimo era di nazionalità ecuadoregna. Rimaniamo nelle Americhe, Haiti, proteste contro i caschi blu, almeno una vittima. E almeno una vittima accertata e un numero imprecisato di feriti. Il bilancio è ancora incerto, altre fonti parlano già di 2 morti. Al termine di una giornata ad alta tensione, in cui migliaia di persone sono scese in piazza nelle località di Cap Haitien nel nord, seconda città del paese, e anche a Ince, nel centro, per protestare contro i caschi blu nei palesi della missione di stabilizzazione dell'ONU MINUSTAH, accusata di aver provocato l'epidemia di colera che conta ormai più di 900 decessi. Secondo notizie confuse, tutto sembra essere iniziato nella mattinata di ieri, quando a Cap Haitien, dopo che il cadavere di una persona presumibilmente vittima del colera è stato rinvenuto da alcuni passanti nella Rue 2. Centinaia di persone si sono in seguito riversate in strada, hanno eretto barricate, incendiato pneumatici e lanciato pietre contro i veicoli della MINUSTAH, intervenuta insieme alla polizia per disperdere un altro gruppo di manifestanti che aveva dato fuoco a un commissariato. In serata il corpo di un uomo ucciso da colpi di arma da fuoco è stato trovato nella Rue 24. Secondo testimoni, nella stessa zona aveva stato un blindato del contingente cileno dell'ONU. In un'altra zona della città, un deposito del Programma Alimentare Mondiale, che rifornisce la regione nord del paese, sarebbe stato saccheggiato. Manifestazioni ad alta tensione sono avvenute anche a Ince, con diversi feriti. Manifestanti armati hanno sparato sui caschi blu, così riferiscono le forze dell'ordine, ma ci interessa poco. Dopo lo scoppio dell'epidemia dell'est e del nord del paese, a metà ottobre, il contingente nepalese della MINUSTA, di stanza nel Plateau Central, è stato accusato di aver favorito la propagazione del batterio riversando escrementi nei fiumi Kanni e Jemba. Per ultima notizia, andiamo a leggere una notizia che è uscita solo oggi in Italia, ma risale al 28 ottobre. In Francia sono state sabotate linee di fibra ottica, blackout televisivo. Giovedì 28 ottobre, come conseguenza di alcuni atti vandalici, le trasmissioni dell'emittente France 3 sono state interrotte per la quarta volta in 5 mesi. Il ripetitore della regione del nord Pas-de-Calais è stato attaccato, questa volta attraverso la recissione di fasci di fibre ottiche. Nella stessa giornata, nell'area di Dunkerque, il sabotaggio di cavi di fibre ottiche per il trasporto di dati ha causato un blackout di emittenti televisive via cavo, connessioni telefoniche e internet. E andiamo a leggere, proprio per concludere, un breve comunicato sui 5 compagni arrestati a Torino sabato durante un corteo spontaneo antirazzista. Comunicato uscito oggi. Nel tardo pomeriggio di sabato 13 novembre, un presidio antirazzista nel quartiere di San Salvario prendeva le strade e diventava un piccolo corteo. Pare che in seguito a qualche tafferuglio con una pattuglia dei carabinieri sia scattata la caccia all'uomo. I partecipanti al corteo venivano dispersi e le strade setacciate. 5 compagni sono da quella notte rinchiusi nel carcere delle Vallette, un altro, come si è appreso oggi dall'udienza di convalida, denunciato a piede libero, e in attesa della decisione del GIP i 5 restano in carcere. Libertà per Luigi, Luca, Luigi, Niccolò, Michele, contro tutte le gabbie. Seguiranno aggiornamenti. E con questo concludiamo la rassegna LGR Radio del 13 del 16 novembre 2010. Vi lasciamo le trasmissioni del martedì pomeriggio di Radio Onda Rossa, sempre sugli 87.9 FM. sintonizzati su Radio Onda Rossa, sono le 13.33. 87.9 la frequenza per chi ci ascolta da Roma e l'Alto Lazio. Ondarossa.info per chi ci ascolta in streaming. Circa una mezz'oretta di musica con il nostro automatico e poi alle ore 14 Tarantula Rubra, e vi ricordiamo che oggi sarà ospite l'antropologa professoressa Anna Maria Rivera con Tarantula Rubra. Questa è la vostra radio, la radio libera, libera da padroni, la radio che vive con voi e per voi, e i sostegni economici potranno essere effettuati tramite le indicazioni che troverete sul sito onderossa.info, quindi versamenti, ma anche passando per radio, ma anche comprando le nostre scarceranda e intervenendo alle nostre serate in sostegno della radio libera Onda Rossa. Ma che è sta radio? Cambia canale! Metti un po' su Radio Onda Rossa, 87.9. Sì, sì, sì. Radio Onda Rossa, dal 77, la radio delle dirette in piazza, dei cortei, della musica indipendente. La radio che se esce fuori dal raccordo non se via. E tanto c'è lo streaming. La radio delle voci dai CIE, del concerto di Giallo Biafra, dei mille banchetti e dei problemi tecnici. La radio del compagno automatico, l'unica radio che vive senza pubblicità. Per questo Radio Onda Rossa ha e continua ad aver bisogno di chi l'ascolta, la diffonde e la supporta. Ancora una volta chiediamo sostegno a tutte e tutti voi che avete sempre appoggiato questo progetto che continua a esistere e resistere come voce di chi non ha voce. Onda Rossa è la voce critica della realtà presente, l'insostituibile mezzo per amplificare le nostre lotte, per immaginare e costruire un altro futuro. La radio di Rosso, oltre al cuore, ha anche il conto in banca. Campagna di sottoscrizione straordinaria per Radio Onda Rossa. Sostieni Radio Onda Rossa al conto corrente postale 61 80 40 01 da intestare a Radio Onda Rossa, via Revolci 56 00 185 Roma. E anche su www.ondarossa.info, cliccando sul tasto Sostieni. La mia radio, la tua radio. Campagna di sottoscrizione straordinaria per Radio Onda Rossa. per me a mostrarle chia peghiare con i pesci in mezzo all'onne. Noi s'andiamo a diverti tutti al mare, tutti al mare a mostrarle chia peghiare con i pesci in mezzo all'onne. Noi s'andiamo a diverti tutti al mare, tutti al mare a mostrarle chia peghiare con i pesci in mezzo all'onne. Noi s'andiamo a diverti tutti al mare, tutti al mare a mostrarle chia peghiare con i pesci in mezzo all'onne. Musicalement dingue, tu vois bien que je fus complètement dingue. Sur ta banquise, moi petit glaçon, j'ai sciemment scié mon cercle en rond. Si je fus polaire, pour mieux te plaire, je fus bien amère, douce colère. Quand notre tendre affinité a fondu comme une neige en été. Un soir d'hiver, une heure de Shabbat, tu as commis le premier faux pas. En demandant ma main, je crois t'avoir dit qu'on ne m'aurait pas, non. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, bagué, bagué, bagué, à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Né dans un petit bouquet, rose étant la couleur de mon bracelet. Ou sexe faible, apparenté, je fus fortement désappointé. Par l'image du pigeon voyageur qui toujours retourne à l'envoyeur. En amour, rien ne vaut le danger, la fidélité en liberté. Un soir d'hiver, une heure de Shabbat, tu as commis, tu t'en doutais pas. Un impermède, depuis je crois savoir que tu ne m'aurais pas, non. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, bagué, bagué, bagué, à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Tu as commis le premier faux pas. Mais maintenant je sais très bien que nous n'aurons jamais nos mains, non. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, et nos doigts bagué, bagué, bagué. Et nos mains bagué, bagué, bagué, bagué, à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué, bagué. Under the big bright yellow sun. un petit peu d'air ne me fera pas mal. Planter mes pieds en éventail. La vie en bleu dont tu parlais. La vie en rose comme un banc de sable. L'oroscopo era quello di entrare dentro e devastare tutto, però non gli è riuscito, sono stati respinti. E si rientra dentro la sera e si decide comunque di continuare con la cena prevista. Solo che dopo due ore tornano, questa volta erano molto più numerosi, e niente, tornano con l'obiettivo proprio di accoltellare, cioè di fare la tipica infamata loro. Perché questa volta, cioè, è chiaro che non volevano più entrare dentro, pur essendo il numero triplicato, possiamo dire. E appena fuori, poi si riesce di nuovo fuori, appena un compagno resta isolato, si avvicinano di loro e gli dà queste due fendenti alla schiena. Poi vabbè, la cosa di sottolineare nella serata, poi ovviamente ti dico che è premeditato, perché appena sono state date queste due fendenze, loro indietreggiano tutti insieme e scappano subito, capito? Quindi non è un gesto, cioè un raptus, che non gli altri che erano con lui non se ne sono neanche accorti, capisci? Poi vabbè, il compagno viene portato in ospedale, viene subito operato, perché comunque il taglio è stato di 10 centimetri. Però per fortuna è stato un taglio che è andato dal basso verso l'alto, infatti gli ha bucato la pleura, quindi ci bastava davvero altri pochi centimetri, gli bucavo un polmone con le conseguenze che ci possiamo immaginare. Cioè, oltre il danno, la beffa. La beffa perché nella serata poi ovviamente è arrivata Digos, poi polizia, e che succede? Invece di andare a cercare chi ha fatto l'aggressione, ovviamente vengono posti sotto proprio interrogatorio tutti i compagni presenti, anche quelli che erano arrivati dopo. Viene perquisita la sede del collettivo, all'interno della quale viene trovata una falce di 30 centimetri che tenevamo, capito, come ricordo delle lotte per le contadine. E su questa falce praticamente è stato denunciato anche un compagno per detenzione di arma impropria. E oltre a questo, vari compagni, sia di Catanzaro che i compagni che sono venuti da fuori, sono stati denunciati per favoreggiamento in tentato omicidio. Sì, che questa è una dinamica che poi abbiamo imparato a conoscere anche nel corso degli anni. Capito, proprio, ma cioè, non c'è da meravigliarsi, non è perché ne vediamo di tutti i colori, però. Cioè, noi il giorno dopo ci trovavamo con un compagno in ospedale e altri compagni denunciati per favoreggiamento di stato omicidio di questo compagno. Poi niente, dopo tre giorni l'accaduto, vabbè, intanto lo dico giusto per cronaca, l'atteggiamento dei giornali è stato quello che sappiamo tutti, cioè hanno voluto fare proprio passare in un primo momento tutto l'accaduto come una rissa tra bande, una rissa del sabato sera, capito, per sminuire quanto è accaduto. Però poi noi siamo usciti con un comunicato, penso che abbiate letto, abbiamo comunque fatto un po' di chiarezza, intanto è andato questo coordinamento antifascista Catanzaro, stiamo un po' spingendo. Poi no, ecco, un'altra cosa che volevo dire, tre giorni dopo accaduto, un altro compagno era andato a trovare questo compagno che era ancora in ospedale, che era ricoverato con tanto di drenaggio, no, perché c'era il sangue. All'uscita dall'ospedale viene aggredito, anche lui, ovviamente 5 contro 1, proprio all'uscita, ma in piena, erano 8 e mezza di sera, cioè davanti a tutti, cioè l'ospedale è in una zona abbastanza centrale, di passeggio, quindi non è che era isolato tanto, o quant'altro. Viene aggredito, pure lui, vabbè, passa la sera in pronto soccorso, visite. È queste cose qua, insomma. Questo senti, per farvi capire un attimino il clima che si respira in questa settimana a Catanzaro, comunque. Sì, però in qualche modo sicuramente questo è l'episodio, gli episodi anzi più gravi che si registrano, sì. Però in qualche modo non nascono dal nulla, no? In realtà a Catanzaro esiste un fermento da tempo della destra radicale, sì. Giusto? Sì, allora guarda, il gruppo che c'è ora a Catanzaro si chiama Alternativa Popolare, ok? Questo gruppo praticamente è uscito a destra da Forza Nuova quando Forza Nuova fece l'accordo elettorale con la Mussolini, ok? Dall'epoca si è formato questo gruppo Alternativa Popolare, però cioè, a Catanzaro non sono le prime aggressioni che si verificano, cioè a partire in ordine del tempo dal 2002 ad oggi sono una serie non infinita, però ci sono bei casi, ad esempio gli attacchi alla sede di Rifondazione e di Comunisti Italiani, poi uno sicuramente dei più gravi, il 25 aprile del 2004 c'era un presidio in piazza, che è piazza Prefettura a Catanzaro, e praticamente questo presidio è stato aggredito proprio in stile ventennio, cioè sono arrivati marciando squadra, proprio come le squadracce del ventennio, e hanno picchiato, cioè, tutto quello che sono trovati davanti. Era, cioè, un presidio di un comitato, del comitato 25 aprile, che era molto variegata la presenza in piazza, capito? Non era un presidio, diciamo, di soli militanti, c'erano anziani, donne, bambini, però loro, cioè, tutto quello che avevano davanti, insomma, sprangavano. Poi ad esempio un altro attacco alla sede del consolato marocchino, insomma, più queste qua per quelli più eclatanti, diciamo. Poi le cose che ci vive nella quotidianità, con aggressioni a semplicemente quello diverso, sai, no? Può essere quello che ha i capelli lunghi o quello che ha la spilletta, le solite cose, insomma. Senti, però in qualche modo tu dici che poi sono usciti a destra da Forza Nuova, appunto sulla questione dell'alleanza con la Mussolini, eccetera, sì, infatti... però non sono estranei neanche alle amministrazioni locali, visto che poi hanno anche occupato uno spazio, se non sì, sbaglio. Sì, infatti ci stavo arrivando. Allora, loro, quello che si legge dai loro volantini, che sono un gruppo extraparlamentare, che non ricevono i finanziamenti e quant'altro, però le spalle ce l'hanno coperte come? All'interno dell'amministrazione ci sono determinati consiglieri comunali o assessori che continuano, capito, a proteggerli, a prenderseli sotto braccio quando succedono queste cose, se ne escono con le cose, no, ma tanto sono ragazzi, non sanno quello che fanno, sono disagiati, capito? E poi facendo così si sminuisce il fatto politico, capito, per far passare tutto sotto silenzio, no? Infatti una cosa su cui noi stiamo spingendo ora è che, cioè, questo è davvero, cioè, ci stava per scampare il morto, quindi non è più possibile che continuano a difenderli, a proteggerli e a finanziare determinati soggetti politici dalla città, capito? Ma poi, cioè, non c'è neanche tanto da stupirsi se andiamo a vedere al governo i vari o pure a Roma le mani, cioè, purtroppo è una cosa che si ripete in tutta Italia. Che si verifica anche a Catanzaro, però con questo coordinamento che si è creato abbiamo fatto un'assemblea cittadina sabato scorso, che è lanciata in qualche modo la manifestazione, ed c'è stata una buona partecipazione. La cosa buona è che cioè, oltre alla solidarietà ricevuta da tanti collettivi d'Italia, in particolare del sud, questa qua è una cosa che ci ha fatto davvero tanto piacere, cioè proprio la solidarietà dei vari collettivi e delle realtà pure antagoniste del sud, del mezzogiorno, che infatti ci continuano a chiedere fino a poco tempo fa, quando era la manifestazione, perché c'era proprio questa volontà di venire all'amministrazione a Catanzaro. Comunque, oltre alla realtà più nostra, diciamo, anche Rifondazione, PCL, le varie associazioni, lo stesso PD o l'Italia dei Valori sono usciti con comunicati che condannavano il gesto, sai, col loro linguaggio e nei loro modi, però comunque una presa di posizione sembra esserci, ecco. Ma anche da cittadini semplici, cioè, ci sono stati tanti interventi nell'assemblea di ragazzi come signori più grandi, che non erano in nessuna associazione, in nessun partito, in nessun movimento, che intervenivano come liberi cittadini, diciamo. E quindi questo sì, c'è stata una una reazione, diciamo, eh? Senti, noi in realtà ci accorgiamo che sono le 13.10, quindi abbiamo anche abbondantemente sforato sulla fine. Io penso che noi sicuramente torneremo a sentirci nella giornata di sabato per raccontare appunto il corteo. Io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere, okay. Oppure... No, solo che ribadire che sabato 20 c'è questa manifestazione, ovviamente... Chiunque voglia partecipare, cioè ben venga, capito? Ti posso dire già le realtà che hanno aderito del sud Italia, sono dalla Sicilia, sia Palermo, Catania, Messina, poi Reggio, Cosenza, dalla Campania pure, insomma ci si sta muovendo. Altri compagni scendevano anche dal nord Italia, che sono magari delle realtà più vicine a noi, comunque abbiamo, diciamo, contatti. Poi ovviamente chiunque voglia venire, insomma, ben venga. Va bene, allora okay. Ci sentiamo. Va bene. Un abbraccio. Grazie, ciao. Sur fond de grève, de mensonges médiatiques pro-sarco et de matraquage gouvernemental sans trêve, ils veulent que ce d'embarque. Allora, alle 13.11, ormai decisamente in ritardo, vi lasciamo tra qualche istante al GR di Radio Onda Rossa. Appuntamento con Maldestra, come di consueto, è per martedì prossimo 12.15 circa, oppure con il blog maldestra.noblogs.org. Un saluto a tutte e a tutti. Centre de rétention, fourre-tour de CRS. Contestation réprimée par des apprentis SS. Ils se croient libres et informés correctement. Détestent les livres assommés comme la plupart des gens. Écrasés sous le poids de la propagande. La télé ment 150 chaînes, ça me fait une belle jambe.